Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi parliamo di Big Data in ambito industriale e in ambito di ricerca. Il tema dei Big Data è assolutamente affascinante. Parliamo di zettabyte, di terabyte, di grandezze dove si misurano i dati con 1 più 12 zeri, 15 zeri, 20 zeri. Più tardi ci sarà una scheda che vi farà un po' capire tutto su questo. E ne parliamo con uno dei nostri interlocutori abituali, che è Patrizio Bianchi, economista industriale, già preside e rettore a Ferrara e con un sacco di cattedre e di pubblicazioni, ma non per questo una persona che usa eufemismi o parla, come si dice, coi peli sulla lingua. Lui dice pane al pane e vino al vino in questi settori, e li spiega anche in modo semplice. Buongiorno Patrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa diciamo sui big data in ambito industriale, di nuovo, che i nostri ascoltatori già non conoscono? Beh, diciamo una cosa innanzitutto. Allora, che cosa sono i big data? Se voi prendete il telefono che avete in mano e confrontate questo col telefono che avevate non 50 anni fa, ma 3 anni fa, il vostro telefono fa una quantità di dati che è 1000, 2000, 3000 volte quello di 3 anni fa. Pensate semplicemente alla quantità di dati che il vostro telefonino vi gestisce quando vi dice dove siete in macchina o quando vi dice dove dovete andare per raggiungere casa vostra. Pensate alla quantità di dati che c'è oggi dentro ad un ospedale. Quando una volta facevate una lastra, oggi facendo un attack ne fate 1500, 2000 volte. La scienza dei dati è tale che oggi abbiamo tanti di quei dati che facendole girare, e questi ripetendosi, sono loro che ci dicono che cosa sta succedendo. La capacità allora di gestire tanti dati, la capacità di farli funzionare, di avere delle applicazioni, è la nuova industria. Esso stesso è la nuova industria. Tu vendi un prodotto e dentro metti l'intelligenza del prodotto. Questo è il pezzo di nuova industria. Con Patrizio Bianchi parleremo di questo tema nella seconda parte della trasmissione. Intanto ascoltate questa scheda. Lo sapete che cos'è una zettabyte? Si tratta di un'unità di misura per volumi astronomici di dati. Uno zettabyte è pari a 10 byte elevati alla 21esima potenza, quindi a 1000 miliardi di byte. Oppure uno zettabyte è pari semplicemente a 1000 exabyte. E un exabyte, a sua volta, corrisponde a 10 byte elevati alla 18esima potenza, ovvero 1 miliardo di miliardi di byte. Nel 2016 i dati circolanti sull'IP mondiale hanno raggiunto quota 1 zettabyte. Benvenuti nell'era dei big data, cari uomini e donne che vivono di industria. Era nella quale le strategie aziendali dipenderanno sempre di più da informazioni estratte da flussi di exabyte e zettabyte. Che il flusso mondiale di dati arrivasse a miliardi di byte era prevedibile, visto che 2 miliardi di persone hanno accesso a internet e ci sono 5 miliardi di smartphone attivi. Ma quando l'Internet of Things e la Smart Factory dell'Industry 4.0 saranno realtà di tutti i giorni, sarà necessario inventarsi un termine per quantificare 10 byte elevati alla 24esima potenza, ovvero 1000 miliardi di byte. Le previsioni sul numero di oggetti connessi a Internet o fra di loro, infatti, stimano 20 miliardi di oggetti comunicanti entro il 2020, prevalentemente in ambito industriale. Così nel 2020 c'è chi prevede un traffico mondiale di dati pari a 70 zettabyte, il che vuol dire che nel giro di 4 anni il flusso di dati del 2016, pari appunto a 1 zettabyte, si moltiplicherà per 70 volte. I big data hanno almeno 5 caratteristiche. La prima è appunto il volume. La seconda è la velocità, visto che il flusso di dati scorre a un ritmo senza precedenti e deve essere gestito in modo tempestivo. Tag RFID, sensori e contatori intelligenti, guidano in tempo reale la necessità di gestione di questo flusso. Terza caratteristica dei big data è la varietà, visto che oggi i dati si palesano sotto le più svariate forme: dati numerici strutturati stati in database tradizionali, informazioni ricostruite attraverso applicazioni line of business, documenti di testo non strutturati, email, video, audio, notizie provenienti da quotazioni in borsa e da transazioni finanziarie. Gestire, acquisire e governare un'ampia varietà di dati sono temi che le organizzazioni industriali non possono eludere. Quarta caratteristica dei big data è la variabilità, visto che il flusso può essere alternato tra periodi inconsistenti ad altri in cui si verificano dei picchi elevati. I dati scatenati durante gli eventi, in aggiunta a quelli generati quotidianamente, possono essere difficili da gestire. Quinta, ma non certo meno importante caratteristica dei big data, è la complessità, visto che oggi i dati provengono da fonti differenti. Collegare e abbinare i dati tra diversi sistemi per poi pulirli e trasformarli significa impiegare uno sforzo notevole. Inoltre, è essenziale saper connettere e correlare relazioni, gerarchie e collegamenti tra una molteplicità di dati, altrimenti gli stessi potrebbero finire velocemente fuori dal controllo. Benvenuti nell'era dei big data. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi parliamo di big data in ambito industriale e ne parliamo con Patrizio Bianchi, economista industriale, con cui avete già ascoltato qualche scambio di opinioni nella prima parte della trasmissione. Allora Patrizio, le imprese competono sull'accumulazione dei saperi, è un tuo leitmotiv, e questo è coerente con la storia dei big data. Certo, la storia dei big data però richiede grandi infrastrutture, cioè c'è bisogno di mettere insieme tutte le grandi capacità che ci sono in un paese, in Europa, proprio per avere, uno, la capacità di mettere insieme tutti i numeri e, secondo, per sviluppare le chiavi di lettura per i numeri, perché altrimenti in questo mare, in questo oceano ci si perde. Noi in Italia abbiamo queste grandi strutture, perché si pensa che, ad esempio, tutte le università italiane hanno concentrato i loro numeri per la loro ricerca in un unico centro, che si chiama il CINECA. Il CINECA è il consorzio di tutte le università italiane che gestisce i dati di tutta la ricerca in tutti i campi di tutte le università italiane. Abbiamo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è pure in Italia, a quello che si chiama il Tier 1, cioè il nodo principale della rete. Pensate, tutti conoscono il CERN di Ginevra, ma pochi sanno che i calcoli per il CERN vengono fatti a Bologna, cioè direttamente all'INFN. Abbiamo l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che pure controlla dall'Italia tutti i radiotelescopi d'Europa. Quindi abbiamo in Italia non solo grandi capacità di ricerca, ma anche grandi capacità di gestire i dati, e questo è un patrimonio per tutto il nostro sistema a partire dalle nostre imprese. È come, cioè, se noi avessimo già costruito una rete ferroviaria ad altissima velocità per tutti i nostri dati, anche per noi che passiamo una volta ogni tanto sulla ferrovia. Ecco, ma voi avete fatto come Regione Emilia-Romagna, ecco, apro una parentesi per dire che Patrizio Bianchi è un economista industriale, ma siccome lui ha delle giornate di 36 ore, fa anche l'assessore al lavoro e alla ricerca nella Regione Emilia-Romagna, ecco, lì a Bologna avete fatto un grosso polo dei big data. Ma anche perché Bologna, che era storicamente la città dell'università in Italia, è qui che sono situati appunto il CINECA, l'INFN, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il CNR e tutti i grandi istituti di ricerca, che un tempo erano delle cittadelle chiuse, erano dei piccoli mondi separati rispetto alla realtà, e che oggi invece, messi insieme, in collegamento fra di loro, ci permette di sapere che, ad esempio, in una città italiana, Bologna, ci sono 2.000 persone, al di là dell'università e al di là delle imprese, che lavorano proprio per gestire i dati e per metterli a disposizione poi anche di chi li utilizza. Però pensi, ad esempio, che ci sono delle grandi imprese sconosciute che, ad esempio, lavorano nel settore della gestione dei bilanci di impresa, che hanno già grandi dimensioni, e noi stiamo lavorando perché diventi il nodo della rete europea. Ecco, ma per fare questo sono necessari degli investimenti, dei soldi, chi ve li dà? Certo. Questa cosa si sta mettendo in parte il governo nazionale, stiamo lavorando molto con la Commissione europea, c'è questo piano europeo per mettere in fila tutti i nodi che a livello europeo governano questo, su quello che si chiama l'High Performance Computer. E dall'altra parte, ovviamente, noi mettiamo anche noi come regione non soltanto le strutture fisiche, ma soprattutto stiamo direzionando su questo tutti i fondi europei che noi disponiamo. Siccome questa è una trasmissione che si chiama Fabbrica 2.4, mi corre l'obbligo di chiederle in che modo i big data cambiano il mondo dell'industria, della manifattura. Ah, glielo dico subito. Guardi, qual è la chiave di Industria 4.0? È l'idea che lei ha la capacità di produrre in grande dimensione prodotti personalizzati. Così come sono, una volta avevamo le medicine per la pressione, io, lei, molti dei nostri ascoltatori hanno una pressione alta, prendono le pastiglie. Industria 4.0 ha la capacità invece di fare la pastiglia per Patrizio Bianchi, per Filippo Astone, per ognuno dei nostri ascoltatori. Questo vale anche per la manifattura, questo vale anche per i servizi, ma pensi, questo vale anche per l'agricoltura. Una grande rivoluzione che abbiamo di fronte sarà l'agricoltura di precisione, che però vuol dire che lei deve avere per ogni tipo di terreno tutti i dati, ma per ogni momento dell'anno tutti i dati atmosferici, ma per ogni tipo di coltivazione tutti i possibili sviluppi. Nell'industria vuol dire che lei non produrrà più macchine o beni generici, ma lei sarà in grado di produrre quel tipo di materiale per quel particolare uso, in quella particolare condizione, in quel particolare posto, e quindi questo vuol dire non soltanto tanti dati, ma soprattutto la capacità di sviluppare le chiavi di lettura e le chiavi di applicazione. Ecco, ma gli imprenditori italiani sono pronti a una cosa così complessa? Nelle scorse trasmissioni e anche in quelle future metteremo in rilievo il fatto che c'è una polarizzazione, c'è un 20% certo. Di aziende che rappresentano l'avanguardia e c'è un 80% che è fermo tra stagnazione e arretramento. Va ricordato, scusi, un dato del Centro Studi di Confindustria sulla produttività delle imprese più dinamiche, questo c'è nell'edizione degli ultimi scenari industriali. Allora, nel 2007 le imprese più dinamiche avevano una produttività pari al 120% di quelle meno dinamiche, che nel 2015 è salita al 155%. Insomma, l'industria italiana è un po' spaccata in due e c'è proprio una parte che è veramente indietro. Sì, però c'è una parte che è anche veramente avanti. Mi faccia parlare prima di questo e poi parlo delle altre. Okay. Quelle che sono avanti sono imprese che già da oggi sono in grado di tenere non solo tutti i dati dei loro utenti, dei loro clienti, ma se fanno macchine anche degli utenti, cioè sono in grado, in epoca ad esempio Facebook, di sapere effettivamente quali sono le necessità a cui rispondere. La concorrenza sarà sempre più sui bisogni, sempre meno sui prodotti standard. Su questo, però, mi faccia fare un esempio. Se lei fa un prodotto apparentemente standard, pensi dei pezzi di ricambio, I pezzi di ricambio vanno su altre macchine, o vanno su dei trattori, o vanno su delle macchine motrici. Un conto è se lei vende il pezzo standard, un conto è se lei ha nel suo database tutti i dati delle macchine che in contemporanea sono in giro in tutto il mondo, in modo da essere lei a dire: guarda che la macchina che sta funzionando in Cina o che sta funzionando a Casteldebole, in realtà è ora che ricambi quel pezzo, cambi quell'altro. Cioè, tanto più lei vende non solo un prodotto, ma anche tutti i servizi. Però, caro, lì non abbiamo più il professore, abbiamo l'assessore che è un po' politico. Perché poi ste cavolo di imprese che sono arretrate non investono nulla. Cosa ci facciamo di questi qui? No, dobbiamo indurli. Aspetti, qui non è un problema di assessore o professore, qui è un problema di buonsenso, che la domanda è: ma se uno non fa nulla e aspetta che piova, può piovere, certo che può piovere, neanche l'alluvione. Quello che succede è che noi dobbiamo indurre tutto il paese a immaginarsi come un paese innovatore. Se tutto il paese si immagina innovatore, allora anche coloro che rimangono indietro sentiranno lo stimolo a fare, ma bisogna però fare anche le infrastrutture. Le infrastrutture una volta erano le strade e le ferrovie, poi abbiamo detto che erano i telefoni e la rete ICT, oggi io credo che sia anche questa rete di sistemi di big data a disposizione. Poi è chiaro che c'è una parte anche recalcitrante di un paese che non vuole cambiare e, come abbiamo visto in America, magari vota Trump. Però non c'è dubbio che un paese che voglia crescere deve darsi come compito l'idea di essere un sistema Ecco, da questo punto di vista il pacchetto Industry 4.0 di Calenda è stato un primo passo, ma ne devono seguire degli altri. Siccome abbiamo ancora 50 secondi, ci dica secondo lei quale potrebbe essere il secondo passo? Guarda, il secondo passo è quello di legare tutti i pezzi del paese, cioè quello che si chiama il linkage. Bisogna legare i pezzi di università, le scuole, bisogna legare le imprese che sono leader e tutti i loro subfornitori, bisogna ricostruire le reti di subfornitura. Quindi questo è il punto fondamentale, ricostruire il sistema. Vast programma, direbbe De Gaulle, ma secondo me si può fare, bisogna anche in qualche modo ritornare a pensare in grande. Comunque, sì, dobbiamo purtroppo chiudere. Saluto il professor Bianchi, arrivederci alle prossime occasioni. Pensiamo in grande. Saluto gli ascoltatori che potranno sentire le prossime puntate di Fabrica 2.4 il sabato alle 14 e la domenica alle 13:10. Buona domenica.